Uno sconto così? Non te l'aspettavi, eh? Dal 21 al 25 febbraio arrivano i Club Days a MacArthur Glen alla Reggia Designer Outlet. Meno 20% extra sui saldi di articoli selezionati. Solo per gli iscritti al MacArthur Glen Club. Registrati ora e risparmia alla grande. Ti aspettiamo alla Reggia Designer Outlet. Dirigono l'orchestra le zuppe al pomodoro Mutti. Zuppe pronte fresche che a vederle vien la voglia, ricche appetitose mica solo una brodaglia, anche i buon gustai saranno più che soddisfatti, mai più senza le nuove zuppe Mutti. Mutti ti dedica tutta l'armonia delle sue nuove zuppe, fresche, corpose e genuine, da oggi conquistano anche il Festival di Sanremo. Zuppe Mutti, il gusto che si fa sentire. Runtime Radio presenta Michela De Paola in Paucracy, animali rivoluzionari. Ciao, io sono Michela De Paola e questa è Paucracy, animali rivoluzionari. Vi ricordo che questo programma fa parte di un progetto più ampio chiamato Runtime Radio, la radio geek. Per conoscerci e contribuire basta andare su runtimeradio.it, mentre Paucracy la trovate su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker e tutti i più famosi aggregatori. Per contattarci scrivete a paucracypodcast@gmail.com. Ma veniamo all'episodio. In questa puntata molto molto molto speciale siamo andati a casa di alcuni animali rivoluzionari. Massimo e Simone ci hanno accolti insieme ai loro coabitanti del santuario Capra Libera Tutti e ci siamo trovati subito avvolti in un'atmosfera davvero intensa. Come sentirete nell'intervista, gli animali del santuario sono i veri protagonisti del lavoro incredibile che questi ragazzi svolgono. Siamo molto fieri di aver potuto realizzare questo incontro, non soltanto perché gli animali e i custodi del santuario Capra Libera Tutti sono amati da tantissime persone, ma perché ho sentito con questo incontro la reale presenza degli animali rivoluzionari che Paucracy sta cercando di raccontare. Direi di passare all'ascolto dell'intervista. Bentornati amici di Paucracy, siamo qui con Simone Scampoli e Massimo Manni nel santuario Capra Libera Tutti. Esatto, salve. Benvenuta. Grazie, grazie mille. Ciao a tutti, ciao a tutte. È stata una bellissima accoglienza, insomma, veramente. Beh, perché stanno tranquilli, che sono stramazzati sì. dal caldo. Infatti, perché li hanno trovati tutti sdraiati, non t'hanno molestato. Fammi sì, ma allora. Fa più fresco, okay. Sai, perché qui da Capra Libera Tutti a Jurassic Park è là. Vabbè, fanno qui, siamo pronti a tutto. Allora, innanzitutto partiamo subito con capire, cercando di capire che cos'è un santuario, perché noi siamo qua e quindi vogliamo capire che cos'è un santuario e come sono cresciuti questi posti, sia in Italia che all'estero. Ok, perché inizio io, poi vado a dire una cosa che Simone ha studiato molto. Vabbè, sicuramente insomma lui ha fondato un santuario. Sì, io l'ho fondato senza sapere bene cos'era un santuario, nel senso che negli anni poi stavo decidendo di aprire un santuario e ho capito che era una cosa seria, che all'inizio può nascere come un posto, nasce dall'esigenza di dare un luogo sicuro a quegli animali che riescono a liberarsi o che vengono liberati grazie all'intervento degli attivisti. Però poi, stando dentro, nasce anche l'esigenza di che non venga trattato come un contenitore di animali e basta, anzi deve essere una cassa di risonanza da far sentire forte e chiaro all'esterno, perché qua si crea un micro mondo che sarebbe quello che noi vorremmo vedere amplificato nel resto del pianeta, quindi un rapporto animali e umani alla pari, con rispetto, con libertà e quindi il nostro scopo è proprio questo, far conoscere il più possibile non solo le storie degli animali che lo abitano, ma far interagire le persone, far innamorare le persone di quello che stiamo facendo, anche per essere un po' di ispirazione. E infatti mi ha chiesto se come sono cresciuti tanto, ma non so se merito solo del Santuario Capra Libera Tutti, però diciamo che il Santuario Capra Libera Tutti in pochi anni è stato conosciuto, non siamo i primi a aver fondato un santuario, siamo arrivati un po' dopo, però insomma grazie alle nostre storie c'è stata almeno in Italia c'è stata una bella cassa di risonanza. In America poi magari Simone ne sa più di me, cioè stanno alcuni storici fondati insomma tanti anni fa e la gente comincia ad appassionarsi perché effettivamente c'è bisogno di luoghi come questo, perché non solo chi è vegano o si considera animalista ha la necessità di sapere che gli animali abbiano un posto sicuro, ma paradossalmente anche chi ancora non ha fatto una connessione, chi ancora non ha preso una determinata decisione, hanno bisogno di sapere che comunque c'è qualcuno che si occupa degli animali. Sì, parlavi dell'America ed è proprio lì che è nato questo movimento, perché i santuari fanno proprio parte di un movimento di lotta a tutti gli effetti. Sono ormai in quasi tutto il mondo, negli Stati Uniti ce ne sono vari ed è lì che è nato il primo, nel 1986, il Farm Sanctuary. È nato da una necessità, perché in seguito ad un'investigazione fu trovata una pecora ancora viva, moribonda ma ancora viva, e quindi è nata la necessità di trovare uno spazio per questi tipi, queste specie animali. E quindi nacque il Farm Sanctuary grazie ad Hilda, che è questa pecora che è stata trovata, e poi dopo ci sono stati tanti altri santuari. Adesso è veramente un movimento di lotta, appunto, che si estende in tutto il mondo, una vera e propria missione. Noi diciamo sempre che i santuari sono sospesi tra questo presente che noi stiamo cercando di cambiare e questo futuro che immaginiamo, e questo futuro in realtà lo immaginiamo senza santuari, perché il mondo sarà un santuario. Ci auguriamo. Poi una cosa importante da dire è che appunto lui ha detto insomma dei santuari in America che c'era questa pecora da salvare, da ricollocare, no? Ed effettivamente non esistevano questi posti, perché per esempio questi animali considerati da reddito, che la cultura, il sistema li vede come produttori di qualcosa, quindi o venivano uccisi, ma tuttora se non si trova una sistemazione, o comunque vengono ricollocati in quei posti dove vengono sfruttati. Quindi la comparsa dei santuari nel mondo è stata veramente una rivoluzione per questi animali, perché l'alternativa era o l'abbattimento o passare da uno sfruttamento all'altro, perché magari venivano sequestrati e portati in un'altra fattoria, ma diciamo il destino era quello dell'abbattimento. A quei santuari diciamo hanno scongiurato, per alcuni dei fortunati che riescono a essere liberati, una nuova vita insomma. In che cosa si differenzia un santuario da una fattoria? La divisione è netta, perché nella fattoria ovviamente la fattoria nasce per produrre dai gli ortaggi, le verdure, la frutta, ma anche usare gli animali per la produzione di qualcosa, e questo è diciamo è stato il male per questi animali, perché poi, per esempio la mucca viene associata al latte, la gallina alle uova, la pecora alla lana. Ogni animale viene visto in funzione a quello che può dare all'uomo. Vengono chiamate le mucche da latte, le galline da uova, ma mentre sono animali come qualsiasi altro animale, ma sono oppressi dal sistema che li vede produttori di qualcosa. Tant'è che noi al santuario ovviamente abbiamo annientato l'economia, abbiamo distrutto l'economia, sì, ovviamente, perché dai loro corpi non traiamo assolutamente nessun tipo di profitto, tant'è che facciamo molta fatica a volte a spiegare alle persone che no, non usiamo neanche le uova, no, non usiamo neanche il latte, e a volte ci troviamo anche a scontrarci perché è diventata la normalità, mentre per noi che abbiamo, siamo dei visionari, vogliamo insomma che questi animali vengano spogliati da questa da questa cosa orrenda che è il dover nutrire l'essere umano, dare profitto. E ovviamente anche noi abbiamo fatto una scelta di non mangiare, di non indossare, di non usare gli animali, quindi a noi non ci viene neanche in mente per esempio di usare le uova per mangiare, ma per il semplice fatto perché noi non ci pensiamo, quindi non sappiamo neanche dove le fanno, ma non sappiamo neanche dove fanno le uova, che ne so, i passerotti, perché non esiste il passerotto da uova, no? Perché pure sono sempre uova, quindi fa strano alle persone un luogo dove ci sono questi animali e nessuno li sfrutta, quindi noi dobbiamo fare anche una sorta di far capire che gli animali non servono a niente, nulla. Cioè questo vogliamo far passare, cioè noi. Che la mucca fa il latte o la capra o la pecora lo fa qualora mette al mondo un cucciolo o una cucciola, e quel latte serve ad alimentare quell'animale, non noi, non ne abbiamo bisogno. Poi ecco, una volta che abbiamo tolto dalla nostra alimentazione queste cose, non ci pensiamo proprio, vediamo un uovo, dici oddio che buono lo mangio, cioè è una cosa che non la vedi più. Certo. Esatto. E poi quindi la via di mezzo è stata inventata la fattoria didattica, di cui noi prendiamo spesso le distanze, perché la fattoria didattica è sempre quel luogo molto più vicino a una fattoria vera e propria, che è un rifugio, dove magari gli animali non sono sempre gli stessi, perché ovviamente poi non hanno cura di proteggerli, di mantenerli a vita, ma lì proprio insegnano sia ai bambini soprattutto, ma anche alle persone, a cosa serve un animale. Noi proprio invece stiamo cercando di far capire che l'animale non deve servire, non abbiamo bisogno degli animali per vivere, possiamo vivere bene, dignitosamente, in salute, senza l'utilizzo dei corpi degli animali. Sì, è che loro sono appunto esseri viventi che devono essere liberi di autodeterminarsi senza la nostra interferenza. Questo è quel messaggio che mettiamo in contrapposizione alle fattorie. Ma mi viene da aggiungere che un santuario non è neanche uno zoo, perché si differenzia appunto anche da questi luoghi. Questo è uno spazio in cui gli animali vivono, si rigenerano, si ritrovano e stanno qui fino a morte naturale, e questo è il motivo per cui nascono questi posti. Però sono, come dicevamo prima, dei posti in cui si permette anche alle persone di venire a visitare, ma lo si fa in maniera completamente diversa dagli zoo. Innanzitutto non è aperto al pubblico tutti i giorni, perché questa è casa loro, le attività quotidiane sono tantissime e non si apre al pubblico, non si fa pagare un biglietto. Ma il motivo principale per cui non è uno zoo è che qua non si cerca un contatto forzato con gli animali. Nello zoo si va a ricercare questo contatto forzato, che poi in realtà questo contatto non c'è, perché si cerca un contatto con un animale in gabbia, portato via dal suo habitat naturale. Animali che spesso mostrano comportamenti stereotipati dovuti a danni alla psiche, eccetera, eccetera. Qua questo contatto forzato non si cerca, anche se poi a volte un contatto viene, perché c'è l'animale curioso che si vuole avvicinare, ti vuole conoscere, ti vuole leccare, vuole giocare con te, vuole annusarti, vuole, non lo so, coinvolgerti in qualcosa. Ma c'è anche l'animale che non vuole assolutamente la vicinanza, e questo va rispettato, quindi le persone entrano qua per osservarli, e noi diciamo sempre per conoscerli. Grazie alla conoscenza poi si possono riconoscere per quegli individui che sono, in tutta la loro personalità e carattere. E unicità. E unicità, perché questo non è uno quello dell'altro. Esatto. Assolutamente. Già si vede un po' il carattere, insomma, che esce fuori. Allora, quanti sono i vostri ospiti? E se avete qualche storia particolare che volete raccontare a poco? Abbiamo il terrore dei contatti. Mangiano tanto, sì, dovrebbero essere dai 300 ai 400 animali, andando dai pesci rossi fino ai tori. E storie, ognuno di loro porta una storia con sé, noi abbiamo delle storie simbolo che sono molto amate anche da chi ci segue. Per esempio una è Lara, che è una mucca che viveva un branco di mucche qui sopra la mandria, un branco di mucche via sopra la montagna che confina col santuario, che ha deciso di sana pianta di rompere la recinzione e entrare, quindi ha rinunciato a una finta libertà perché si muove a 100 ettari e ha rotto il recinto, e è l'unica di quel branco che è voluta venire qua ed è rimasta. E addirittura c'era il campanaccio, quelle che mettono le mucche in campagna, che noi gli abbiamo tenuto qualche giorno perché dice, vabbè, se se ne vuole riandare, invece non se n'è andata, quindi il primo passo è stato quello di levargli il campanaccio, quindi già quel... Poi venne il proprietario a reclamarla, invece lei si nascose dietro di me, non voleva andar via, e abbiamo deciso di tenerla qua, insomma, e poi abbiamo scoperto che era incinta e ha dato alla luce qua una delle dei suoi piccoli, insomma, l'ultimo, penultimo, diciamo, che poi ha fatto una fuitina d'amore. Esatto. Diciamo che poi quella ha salvato se stessa, ma ha salvato pure la figlia, perché poi probabilmente l'avrebbero comunque mandata al mattatoio una volta pronta. Quindi noi l'abbiamo chiamata Lara Croft, che poi è... che è molto avventurosa, e comunque è anche molto simpatica e ha un bel caratterino intraprendente, che poi dall'altra adesso anche i nostri animali hanno conquistato quella montagna e godono di questi 70 ettari, ma tornano sempre, torna anche lei, quindi lei non ha proprio scelto lei, di solito scappano in mezzo alle strade, scappano, non si sa dove vanno, invece lei ha proprio deciso di venire qua, non sappiamo se ha parlato con le mucche che vivono qua, non sappiamo, però diciamo che ha deciso lei. Non so, puoi raccontare un'altra storia che pensi? Beh sì, ce ne sarebbero tantissime, guarda, mi viene innanzitutto di dire qualcosa su Niccolò, che lo vedo, è davanti a me, un vitello arrivato qua perché in seguito ad un infortunio accaduto nell'allevamento, forse perché giocava con i suoi compagni e compagne o è scivolato, perché sappiamo bene gli allevamenti sono, insomma, forse un po' avversi, comunque il suo destino sarebbe stato un viaggio per il mattatoio anticipato, perché comunque sempre là sarebbe finito, però sarebbe stato anticipato perché questo infortunio avrebbe fatto sì che andasse prima al mattatoio. Massimo è venuto a saperlo da questo allevamento di zona e quindi ha pensato bene di aprire le porte del santuario e vedere se una nuova vita qua avrebbe preso forma, e così è stato, perché poi siamo venuti a conoscenza di Virginia, che è un'osteopata che principalmente, oltre a curare esseri umani, cura cavalli, quindi si è lanciata in questa avventura e ci ha fatto vedere giorno dopo giorno una ripresa impressionante. Questo rapporto tra Virginia e Niccolò è bellissimo da vedere, e Niccolò ormai è... quando lei arriva si vede già dagli occhi quanto apprezza le pratiche, i massaggi, e quanto anche Virginia poi ci raccontava che questo percorso è stato... cioè per lei poi non c'era più un limite tra chi era il paziente e il medico, non c'era più questa divisione, no? Erano... si scambiavano i ruoli molto spesso, perché poi anche Niccolò ha lavorato molto su Virginia per un cambiamento positivo. E l'altra storia che intanto mi viene da dire subito, poi magari non so se vuoi dirne altre tu, la dico perché è molto legata a me, è questo rapporto che si è creato insieme a Isabel e Orfeo. Isabel è una cavalla selvaggia che viveva sulle montagne qua di fronte, in totale libertà insieme ad altri cavalli. Si è spinta in un paesino, non so, probabilmente ha dato fastidio alle persone, purtroppo è stato visto così questo gesto, e hanno tentato di catturarla più volte. Lei ovviamente scappava, ma quando ce l'hanno fatta c'è stata anche allo stesso tempo una frattura alla zampa, quindi è dovuto andare in clinica, e comunque il comune di Monteflavio ha contattato il santuario chiedendo di accoglierla. Sapevamo che l'altro destino non sarebbe stato migliore, quindi si sono aperte le porte. È arrivata qua super diffidente perché selvaggia, quindi giustamente, e anche diffidente perché forse il primo contatto che ha avuto con l'essere umano non è stato proprio dei migliori. E vabbè, abbiamo iniziato questo percorso con lei grazie ai consigli di Alice, Marianna, due ragazze che hanno esperienza con il mondo degli equini, e ho provato a mettere in atto delle pratiche nonostante non sapessi niente di cavalli, e pensavo che non avremmo mai raggiunto niente, perché mi ricordo la prima volta che ho sfiorato Isabel con un dito, e prima di arrivare a sfiorarla con un dito c'è stato un lunghissimo percorso di giochi e pratiche messe in atto. Quando l'ho sfiorata la prima volta è scappata via lontanissimo e ho detto ok, non ce la faremo mai. E invece adesso la faccio breve, c'è un rapporto vero e proprio, perché tutti i giorni c'è questo impegno che ho preso con lei, e quindi condividiamo un pasto. Questo mi ha permesso di iniziare questo processo di desensibilizzazione, di toccarla, rassicurarla, e soprattutto lei anche mi ha fatto vedere come sono io, perché mi devo porre con i cavalli con totale tranquillità e serenità, e quindi mi ha fatto arrivare a un livello in cui passo questo momento con lei, Orfeo, perché Orfeo è suo figlio che lei ha dato alla luce qua al santuario, è arrivata incinta. Non sapevamo se era incinta o aveva i vermi, abbiamo scoperto che era incinta. Quindi quando sono con loro, perché poi lei mi ha permesso anche di conoscere suo figlio, vivi il presente, perché questo devi fare, devi stare lì in tranquillità, in serenità, e quindi anche in questo caso io pensavo di dover fare qualcosa, no? Per loro, ma poi cambia tutto, sono loro che lavorano pure su di te. Certo. Non so. Aggiungere altro. Ok, ci avete altre storie? Ma guarda, siamo qua, stiamo fino a domani mattina, però sì, sì, cioè abbiamo tante, sicuramente poi racconteremo magari quando le persone vengono a trovarci, però sono tutte storie che possono cominciare in maniera triste, ma sicuramente qua poi hanno un riscatto incredibile. Ci abbiamo anche storie belle, perché ci abbiamo alcuni degli animali che sono nati proprio qua, quindi non hanno poi i figli, noi diciamo le prime generazioni dei nati liberi, quindi non hanno conosciuto null'altro che la libertà, non hanno visto la madre picchiata, non hanno visto la madre sfruttata, molestata anche sessualmente, quindi diciamolo, insomma, le vacche vengono abusate, perché quando vengono ingravidate, insomma, gli mettono un braccio dentro, insomma. Poi anche il fatto di doverle mungere, ti faccio vedere, se ti avvicini a una delle mucche che vivono qua e provi a toccargli le tette, ti scalcia, perché loro non vogliono, quindi quando lo arrivano a fare c'è dietro una soggiogazione, un atto di dominanza nei loro confronti. È quello che succedeva prima, che raccontava Simone con Isabel, che deve arrivare puro, sereno, non gli devi portare nulla e non li devi tradire, nel senso che io non ti sto toccando, non ti sto approcciando perché io voglio qualcosa da te. Questa è una delle lezioni che stiamo imparando noi qua, ma poi cerchiamo di trasmettere alle persone. Sì. Anche se qua sono nati tanti, diciamo così, tanti ospiti hanno visto la luce qua, comunque generalmente nei santuari, e penso anche qua, la scelta è quella della sterilizzazione degli animali, quindi di non farli riprodurre. Ci volete parlare di questo aspetto? È il piccolo sacrificio, l'unico sacrificio che dobbiamo chiedere a questi animali, come si fa anche per cani e gatti, no? Perché comunque sicuramente non c'è il pericolo di estinzione di questi animali, ma poi comunque sono animali anche molto prolifici, e non possiamo togliere spazio a quegli animali che invece cercano un riparo, cercano un aiuto, quindi far nascere qui degli animali significa togliere spazio a quegli animali che sono in attesa di essere accolti e salvati. Ma anche se c'è una lista estremamente massiccia, non riusciamo a prenderli tutti, però ci si prova, e anche per il fatto che noi non facciamo compravendita di animali, non cediamo animali, no? L'animale che entra qui o nasce qui rimane qui, anche perché poi per la movimentazione è anche difficile, perché comunque sono animali considerati sempre dei produttori di carne, anche se stanno nel santuario a livello legale, visto che i santuari non esistono, possiamo considerare degli allevamenti, anche gli animali vengono considerati animali da produzione, quindi noi siamo stridolati dalla burocrazia, quindi anche per movimentare gli animali è complicato, ma non abbiamo nessun interesse da farli uscire da qua. No, quindi ecco, invece poi può succedere che arriva una mamma incinta e noi facciamo in modo che possa partorire in tranquillità, certo, con le migliori delle cure. Sono successe anche delle fuitine, cioè nel senso che sono successe che magari le mucche che sono scappate sono andate dal toro del vicino e sono tornate gravide, in quel caso vabbè, la natura vince sempre. Sì. Ci sono state delle castrazioni che sono andate male, anche lì a sbaglia il veterinario, la natura vince sempre. Noi comunque ci fa piacere perché comunque quando nasce il cucciolo porta sempre quella ventata di novità, dalle vie, certo, tutto il branco, comunque è bello vederle anche esprimersi, no? Sì. Nella loro maternità, crescere finalmente i loro figli, no? Noi abbiamo delle mucche e delle pecore a cui sono stati rapiti figli appena nati, insomma, perché per la produzione del latte vengono tolti i figli appena nati, quindi loro si sono visti per una vita portare via i figli. È bellissimo dirgli alla mucca, alla pecora, alla capra, stai tranquilla che te lo cresci tu. Ti guardano sempre con sospetto, però poi alla fine capiscono che se lo tengono. Ma poi è bello vedere che ogni specie cresce i figli in maniera differente, con amore. A volte, per esempio, le mucche non hanno molta ansia, cioè, non sono animali ansiosi, sono molto riflessive. Anche il vitello è molto giudizioso. E poi una cosa bellissima, che non c'era mai nata, cioè, sono nati qualsiasi tipo di animale, qua l'ultimo il puledro, però aveva partorito anche una maialina, la scrofa, e noi siamo sempre stati abituati a vedere che nascono negli allevamenti, quindi in quelle gabbie di contenimento, ma bene che va dentro una stalla. Invece noi non sappiamo assolutamente nulla, ci abbiamo qui delle piccole ricoveri, dico, magari va a partorire là, ma qui, come sai, come hai visto, non ci stanno barriere, non ci stanno recinzioni, quindi alla fine ha deciso lei e ha deciso di partorire in mezzo alla macchia mediterranea che sta qua. Semplicemente ha modellato dei cespugli facendo un nido, come avrebbe fatto di altissima ingegneria un uccello. Ma calcola che lei è una maialina proveniente da un allevamento intensivo, quindi lei non ha mai visto la mamma che faceva queste cose, lei è nata sul cemento. Invece nel suo DNA, probabilmente legato ai cinghiali, perché insomma discende, sì, dal cinghiale, ha fatto questo cespuglio, le ha partorito là, li ha protetti dalla pioggia, dai predatori. È stata una lezione stupenda e noi abbiamo imparato anche a mettere da parte la nostra ansia, perché lì dice li sposto, li tocco, li porto in casa, li porto. Invece lei ci ha fatto capire che fatevi l'affari vostra, perché comunque è un'altra grande libertà che noi cerchiamo di dare agli animali, anche quella di liberarli dalla nostra ansia, che quella è un'altra catena ulteriore, perché uno c'ha paura, oddio muore, oddio. Invece loro sono in grado di badare a loro stessi, sono in grado di crescere i loro cuccioli, a volte si curano anche da sole. Poi ovviamente noi valutiamo bene, ci stanno anche i momenti in cui interveniamo, perché è il privilegio di stare comunque non in completa libertà, ma in semilibertà, a stretto contatto con l'essere umano. È privilegio, è sicuro se hai bisogno. Certo, là. Certo, è il vostro compito. E vabbè, l'abbiamo già detto nelle varie storie che abbiamo raccontato, però ci viene da chiedere questi animali come arrivano qua, perché molto spesso magari vediamo anche scene di liberazione massiccia, sì, che però in realtà è un atto potente, un atto significativo di grande protesta e di grande comunicazione, però abbiamo visto che non sempre è la scelta giusta, e che poi i santuari non è che possono contenere tutti gli animali, insomma. Possiamo spiegare insieme questo, sì, aspetto. Poi magari delle azioni di liberazione ce le racconta Simone, che insomma ne ha fatte tante, anche io, però insomma i primi animali li ho liberati da me stesso. Diciamo che quando i santuari, insomma, tanti anni fa c'era ancora un po' di posto, adesso cominciamo a centellinare gli ingressi, anche perché abbiamo sempre la burocrazia che insomma sta attenta anche a quanti animali ospiti nel rifugio. e non è che puoi tenere tanti animali che, come hai visto, poi distruggono anche l'ambiente che hanno intorno, se tu tieni tanti animali in poco spazio. Ok, detto questo, c'è anche la fase economica, quindi quando si liberano gli animali bisogna sapere che quell'animale vivrà 15 anni, 30 anni e avrà bisogno di mangiare, avrà bisogno di cure, avrà bisogno di ripari, andranno aggiustate quelle cose che rompe e insomma è una cosa che dura per tutta la vita e che si accolla ovviamente il santuario. Buona norma sarebbe che chi libera gli animali partecipi alla vita, alle spese, insomma alla condivisione della vita di chi ha salvato. Non succede mai, posso garantire, non succede mai. Noi se facciamo entrare un animale sappiamo benissimo che poi sarà totalmente a carico del santuario e facciamo spallucce. Non è, al momento non è quello che ci fa desistere dal prendere un animale o no. È il fatto proprio di non sapere se possiamo dedicare le giuste cure a un altro animale, come ce l'esse tanto. È dura dire di no, sicuramente dura dire di no, perché a volte dire di no mette l'incertezza sulle sorti dell'animale. C'è la rete dei santuari, comunque sono vari santuari in Italia che fanno rete e cerchiamo di far girare i vari appelli, ma ti dico che abbiamo centinaia di animali frutto di la liberazione di sequestro, per esempio, no? Perché adesso finalmente hanno cominciato a fare un sacco di controlli negli allevamenti. Quando trovano delle situazioni al limite dell'indecente, gli animali vengono messi sotto sequestro. Se non esistessero i santuari verrebbero abbattuti, ma dal momento che esistono i santuari si può chiedere al magistrato, alla procura, quelli che si prendono in carico questi animali sequestrati, di darci del tempo per sistemare gli animali, ma cominciano a essere veramente troppi. Sicuramente storciamo il naso e diciamo di no quando le persone ci manifestano l'intenzione di acquistare l'animale, di acquistare interi greggi e svuotare allevamenti, che sì, in quel momento ti può dare l'ebbrezza di salvare quegli animali, ma stai comunque incrementando quel sistema che noi stiamo combattendo. Non risolvi il problema, metti ancora in difficoltà di più i rifugi, perché si parla magari che vanno a liberare 50 agnelli, ma poi pagandoli di più si è creato un mercato parallelo, no? del commercio di questi animali, che noi da una parte diciamo non comprate la carne, poi se dall'altra parte c'è sta l'animalista della domenica, ho preso dalla troppa emozione, diciamo dal troppo pathos, che va là e se li vorrebbe prendere tutti. Sicuramente risolvi la vita di quell'animale in quel momento, ma noi puntiamo proprio alla liberazione totale degli animali, che magari potrebbe essere, se ci fossero centinaia di migliaia di santuari, magari uno accoglie. Però ecco, quando uno viene e dice ho salvato 50 agnelli, ma dove ce li mettiamo quando ci abbiamo già noi il carico di animali e in più ci abbiamo centinaia, ma non sto parlando, non sto scherzando, abbiamo centinaia di animali fermi, bloccati dalle procure, a rischio macellazione, che se non si trova una sistemazione vengono abbattuti e smaltiti come rifiuti. Cosa per esempio succede con i cani, prima si faceva così tanti anni fa, no? Il cane stava tolto al canile, perlomeno in Italia non si fa più, e poi veniva abbattuto. Ecco, per gli animali stiamo lottando anche per questo. Poi ci stanno le liberazioni, quelle fatte dagli attivisti in maniera più o meno gradante, più o meno legale, no? E quelle possono anche essere raccontate, sono dei simboli, non so se ne puoi raccontare una o due, ma o sì, il senso. Sì, no, i modi per liberare gli animali appunto ce ne sono vari, l'unico che boicottiamo è quello dell'acquisto, ma ha già detto largamente Massimo, piuttosto fate una donazione a un santuario, piuttosto che acquistare animali da un allevamento. I metodi sono vari e noi con il gruppo di attiviste ed attivisti qua di Roma, il gruppo di disobbedienza animale, che appunto si occupa di attivismo, l'abbiamo fatto varie volte in vari modi. Una delle, ma mi viene da raccontare Regan, che comunque è uno degli animali molto conosciuto qua del santuario Capo Libera Tutti, è un agnello che abbiamo portato via, abbiamo in realtà aiutato a liberarsi, perché poi questi animali da questi luoghi vogliono scappare, si ribellano e resistono costantemente, vogliono liberarsi già di per sé. Quindi noi abbiamo semplicemente aiutato e assistito questa liberazione. Quindi l'abbiamo aiutato a liberarsi da questo mattatoio, il mattatoio Ilco di Acqua Pendente, che è il mattatoio più grande d'Italia, che macella centinaia di migliaia di ovini all'anno. Quindi recandoci lì per un'azione di testimonianza diretta, perché noi ci rechiamo anche nei luoghi di ingiustizia dove questa violenza avviene e cerchiamo tramite l'utilizzo di tutti i mezzi a nostra disposizione di esporre quello che accade, di mostrare gli animali, di farli vedere, di farli conoscere, perché comunque queste sono industrie che pagano milioni per oscurare quello che fanno con pubblicità manipolatrici eccetera eccetera. Quindi cerchiamo di esporre quello che accade, e quella mattina, come è successo altre mattine, arriva questo camion carico di agnellini, un rumore assordante, perché comunque il belato degli agnelli poi ricorda molto veramente quello anche dei neonati, con magari il camion di altre madri che era entrato prima, chissà se c'era pure la madre oppure no, non si sa. Comunque è un costante rumore assordante, no? Che cerca la madre, il compagno, il fratello, la sorella, la libertà. E quindi abbiamo provato, grazie alla comunicazione non violenta che mettiamo in atto, a comunicare con le persone del mattatoio, e è successo che comunque hanno assistito, no, a questa liberazione. Quindi ecco com'è arrivato Regan qua. Questo è uno dei modi che a volte noi mettiamo in atto. Abbiamo usato anche altri metodi. Il succo del discorso però è sempre quello di assicurarsi che un santuario può accoglierli, perché il processo della liberazione assistita è comunque il processo più semplice della liberazione, perché poi dopo c'è da considerare l'aspettativa di vita, tutte le spese che servono per il mantenimento, le cure, tutto quello che può generare. Insomma, presentarsi alla porta con un animale del santuario è un gesto abbastanza incauto, se non si ha la certezza che possa essere accolto, e che non pesi bene sulla vita degli altri, certo, animali, che già ci sono. Quali sono i vostri obiettivi futuri, i vostri progetti? Come state messi? Oddio, ce l'abbiamo talmente tanti, almeno dico la mia, poi tu dici la tua. Vabbè, tanto ci siamo espansi grazie pure all'aiuto delle persone che ci seguono, tante persone che ci seguono, che sono talmente appassionate a questo posto che hanno fatto sì che diventasse ancora più grande. Quindi abbiamo preso altri 5 ettari, altre strutture, quindi gli animali avranno più spazio per pascolare, per girare liberamente, noi avremo più spazio per accogliere le persone. Abbiamo l'intenzione di far sorgere una clinica proprio dove stai qui adesso tu, diventerà una clinica per gli animali residenti del santuario, col veterinario fisso a loro disposizione. E poi ecco, vogliamo far sì che il comune di Nerola ci dia in concessione l'intera montagna in pascolo, che sono altri 70 se non certo ettari, che noi già usiamo perché siamo dei panca bestia, quindi usiamo perché gli animali vogliono andare, hanno deciso di usarla, e chi siamo noi per impedirlo? Questo è un podcast che parla di animali rivoluzionari, esatto. Infatti, quindi insomma non potevamo essere altrove. Non hanno detto non ce ne frega niente la recensione, noi andiamo, e noi abbiamo detto andate, quindi poi vogliamo solo regolarizzare questo aspetto, ma comunque già da anni la usano questa montagna, quindi lo scopo è tanto spazio per gli animali, ma tanti messaggi da far uscire dal santuario, ricominciare a far venire le visite, le persone in visita, e regalare a queste persone, non come dicevamo prima, sempre legato al fatto che non siamo un parco giochi per vegani né uno zoo, quindi entrare e fare un'esperienza totalmente rivoluzionaria del modo in cui vedono gli animali e vivono gli animali. Invitare ospiti, poi non so che... Beh sì, hai già detto quasi tutto, perché poi gli obiettivi sono questi, comunque ricreare questo ambiente in maniera che sia uno spazio, anche un centro culturale, dove le persone possono veramente entrare in un modo e uscire in un altro. Gli animali che sono qui sono ambasciatori e ambasciatrici della propria specie, quindi loro faranno tutto il loro lavoro per andare a colpire i cuori delle persone. Però ecco, noi creiamo parallelamente uno spazio in cui veramente le persone possono affrontare tematiche attuali che non riguardano poi solo la questione animale, ma tutto ciò che poi è legato a questa industria. Quindi tratteremo anche altri temi ambientali, sociali. Ci saranno eventi speciali con ospiti di ogni genere, di ogni tipo. Non svegliamo troppo, anzi vogliamo incuriosire, perché le idee sono tante e le metteremo in atto. Però sì, tanto comunque vi possiamo seguire nelle vostre pagine. Certo, lo comunicheremo man mano. Una volta che ritorneremo ad aprire, non ci fermiamo più, insomma, quello sicuro. No. Basta, basta. Abbiamo già dato 2 anni che siamo fermi. Allora, e quindi come possiamo supportarvi in questi progetti? Allora, supportarci, scegliere sicuramente, noi tanto facciamo sempre per campagne, quindi scegliere la campagna che più vi coinvolge, oppure semplicemente contribuendo alle spese del mantenimento degli animali, che si possono fare in tanti modi. Che poi gli animali abbiamo visto che insomma mangiano, si fanno male, arrivano malati, oppure si ammalano qua, non siamo immuni da quello che è la natura, quindi si possono ammalare pure qua. Cioè abbiamo dei conti con i veterinari che sono abbastanza elevati, quindi quando le persone decidono di donare i soldi, sicuramente sanno che vanno per l'alimentazione, per le strutture che li accolgono gli animali e per il loro benessere, quindi cliniche e veterinari. Noi abbiamo tante possibilità, da cui addirittura possibilità gratuite per chi opera. Comunque c'è la possibilità di donare addirittura 1 euro al mese tramite il teaming, che pare niente, invece se fatto da tante persone ci permette insomma di coprire delle spese. Cioè abbiamo l'opzione dell'adozione a distanza. Una persona può decidere di adottare a distanza un animale, provvedere a tutto il suo mantenimento mensile o parte del suo mantenimento, avere delle novità, delle curiosità in esclusiva quando insomma noi gli mandiamo gli aggiornamenti. Poi abbiamo le libere donazioni e abbiamo i nostri gadget, quindi magliette, taccuini, borracce, abbiamo un sacco di roba bellissima. E abbiamo un bellissimo libro fotografico dove raccontiamo 12 storie degli animali del santuario. E poi la cosa figa, perché molti dicono vorrei tanto aiutarvi ma non c'ho i soldi. Prima di andare su questa idea rivoluzionaria, c'è da aggiungere la possibilità di impostare tramite il sito web la donazione ricorrente, quindi le persone possono impostare l'importo che vogliono mensilmente, che comunque è una grande forma di donazione, perché questo permette al santuario di andare avanti, di fare un piano, no, nei mesi a venire. Sì, che poi volontariato ci stiamo arrivando, vogliamo che le persone stiano bene, noi anche, dobbiamo capire solo come gestire le persone e poi sì, sicuramente apriremo al volontariato. Quello che ci tengo a dire, certo c'è un gallo enorme che adesso fa chicchichi, quello che vogliamo dire è che comunque non si tratta di elemosina questa. Certo. È una cosa che stiamo facendo tutti quanti. Velocifero. La cosa che stiamo facendo tutti quanti insieme, quindi noi ci mettiamo le braccia, però questo è un luogo di tutti. Gli animali sono diventati quasi di famiglia di tutte le persone che ci seguono, quindi non stiamo chiedendo un'elemosina, è proprio una cosa che stiamo facendo tutti quanti insieme. Ricordiamolo che noi non siamo supportati dallo Stato, anzi ci trattano come degli allevamenti in fallimento, e molte persone ci dicono che insomma gli allevatori fanno i soldi vendendo gli animali come se fossero più dignitosi, ma li vogliamo ricordare che anche gli allevatori, gli allevamenti prendono i soldi in donazione dallo Stato per dei sussidi che noi non prendiamo, insomma, quindi anche gli amici allevatori sono costretti a chiedere soldi all'esterno. Ecco, però noi abbiamo magari la lungimiranza e l'onestà di non usare i corpi degli animali e lasciarli liberi. È un'impresa titanica, a volte non ti fa dormire la notte, però grazie all'affetto delle persone riusciamo a mandarli avanti. E la cosa bella è che il santuario si può toccare con mano, quando uno dona può vedere come vengono usati i soldi. A parte siamo una no profit, quindi insomma abbiamo il bilancio e si può visionare, insomma. Però chi conosce il santuario Gabriele Belladonna ha visto un'evoluzione da quando è stato fondato ad adesso, le strutture migliorate, le strutture di qualità, ma anche vedere un animale che entra in maniera orrenda, che magari, ecco, per esempio Niccolò era malato, non riusciva a stare in piedi, vederlo rifiorire, vederlo felice, vederlo ricamminare, quello è grazie all'aiuto delle persone, e chi dona può vedere come vengono spesi i soldi. Ma c'è l'opzione gratuita dell'aiuto al santuario, che è una gran figata. Sì, è una novità rivoluzionaria. Si tratta di un'applicazione che oramai è un vero e proprio social media, che si chiama Abilion. Noi siamo super grati a tutto il team. È nata questa partnership tra il santuario Capolibra Tutti e Abilion, quindi si può, grazie a questa applicazione, sostenere il santuario gratuitamente e divertendosi con semplici recensioni vegane. Cioè, che significa? Si può fare delle foto a qualsiasi prodotto alimentare, di cosmetica, prodotti sostenibili per pulire la casa, abbigliamento vegano, oppure anche piatti nei ristoranti o da asporto. Quindi basta fare una foto, andare nell'applicazione, mettere la foto, seguire i passaggi, è tutto in italiano adesso, si deve semplicemente lasciare delle valutazioni, un piccolo breve pensiero veritiero, perché comunque va a contribuire a questa community splendida e in crescita, e una volta postata la recensione, magicamente Abilion sblocca $1 che mette a disposizione di chi recensisce, e chi recensisce può destinarlo a una causa, quindi il santuario Capolibra Tutti è lì presente. Quindi questi soldi vengono dati da in crediti a chi recensisce. Quindi abbiamo fatto grandi progetti grazie anche a questo metodo, che è veramente alla portata di tutti e tutte adesso, soprattutto anche perché in italiano l'applicazione, c'è stata questa fase iniziale in inglese, quindi magari non era proprio accessibile, ma adesso è adesso veramente... è partita. Esatto. Ma ok, quindi abbiamo più modi per aiutarvi. Allora, io direi che più o meno è tutto, nel senso che poi magari ci ripromettiamo di venirvi a trovare di nuovo e quando poi Jurassic Park si sveglia. E io vi ringrazio e sono molto felice di avervi avuto qua. Ma grazie a te, grazie. Torna quando vuoi e sei sempre la benvenuta. Sì, sì, seguiteci sui social, troverete gli eventi, siamo su tutti i canali social. Magari al prossimo evento vi verremo a trovare. Sì, sì, magari intervisti le persone che ci vengono a trovare, che per là sarà una bella sorpresa, perché sono anni che vogliono venire, e penso sarà come visti da parenti, quando vedi il parente da anni, perché ormai, come ho detto prima, gli animali, ognuno ha il suo preferito, quindi quando uno lo vede raccontato online, su Facebook, su Instagram, e poi lo incontri dal vivo, ti dà sempre quell'effetto straordinario di come se lo conoscessi da sempre, insomma. È bello vedere le reazioni delle persone che vengono in visita. Perfetto, allora grazie. Grazie a te. Bene amici, ringrazio ancora Massimo Simone e anche Arianna, responsabile dell'ufficio stampa del santuario Capra Libera Tutti, per averci concesso questa importante intervista, che rappresenta una tappa altrettanto importante nel nostro viaggio. Con questo episodio si conclude la stagione d'esordio di questo mio podcast. Una prima stagione breve ma ricchissima di episodi. Ho realizzato un numero di puntate molto più elevato di quanto mi sarei aspettata e per questo voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno accolto e hanno accolto l'invito di Ipocrasi a raccontarsi. Raccontare la loro storia, le loro iniziative e ci hanno dato la possibilità di raccontare i nostri animali rivoluzionari a cui mi sento ogni giorno più vicina. Ipocrasi tornerà a settembre con tante, tantissime altre interviste già in programma. Anche in vacanza lavoreremo per rendere questo podcast uno dei punti di riferimento per la divulgazione di una cultura più consapevole nel mondo degli animali e siamo sicuri che i nostri animali rivoluzionari abbiano ancora tantissimo da raccontarci. E noi non vediamo l'ora di continuare a sognare insieme. Se potete, passate con i vostri amici quadrupedi un'estate speciale all'insegna della libertà. Prima di lasciarvi, però, vi ricordo che la prossima settimana realizzerò un episodio speciale dove cercherò di fare un punto su questa esperienza, raccontando quello che ho appreso e che stimolo mi ha lasciato dentro per il futuro. Per questo episodio è tutto, ma prima di lasciarvi vi ricordo che questo programma fa parte di un progetto più ampio chiamato Runtime Radio, la Radio Geek. Per conoscerci e contribuire basta andare su runtimeradio.it, mentre Ipocrasi lo trovate su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker e tutti i più famosi aggregatori. Per contattarci potete scrivere a ipocrasipodcast@gmail.com. Da me, Michela De Paola, è tutto. Ciao, al prossimo episodio, buone vacanze e che la rivoluzione abbia inizio! Uno sconto così? Non te l'aspettavi, eh? Dal 21 al 25 febbraio arrivano i Club Days a MacArthur Glen e la Reggia Designer Outlet. Meno 20% extra sui saldi di articoli selezionati. Solo per gli iscritti al MacArthur Glen Club. Registrati ora e risparmia alla grande. Ti aspettiamo alla Reggia Designer Outlet.